musica, David Gilmour canta con sua figlia nel brano che anticipa il suo nuovo album. Intanto l'ex cantante chitarrista dei Pink Floyd si prepara al tour mondiale che partirà a fine settembre proprio dall'Italia. Caterina Proietti. È quella voglia irrefrenabile di non stare lontano dalla musica, quella canzone che inserisci in ogni playlist e magari vuoi far conoscere a tua figlia ventenne. È andata un po' così tra David Gilmour e un vecchio brano dei Montgolfier Brothers, composto nel 1999, rinato grazie al suo arrangiamento e alla voce di Romani, sua figlia. Le analogie, i confronti con i Pink Floyd, la chitarra, la voce, ok, possiamo esercitarci su banali paragoni, ma c'è un dato di fatto: Gilmour e i Pink Floyd sono una pagina di cultura popolare che si rifiuta di scomparire. Le generazioni non li trovano per caso, ma li cercano quando scoprono il disincanto per il mondo degli adulti. Perché negli anni 70 furono loro il campanello musicale del malcontento di un'intera generazione di adolescenti e in fondo lo sono ancora. Ehi ragazzi, non avete bisogno di alcun controllo del pensiero. Immortali, la loro grazia maestosa.